Vai, facciamo un disco. Ma non ho capito come lo vuoi fare quello del jingle, sinceramente. Aspetta. No, fai, falla in questo, in quel modo lì. Cassa. Che scassa. Bravo, così. Facciamola così. Ragazzi, mi fate dire la mia sul disco. Ok. Va bene? Dai, ciappacus. Ciappacus. Ciappacus. Ancora. Ciappacus. Ancora. Metti dentro il campione. Ancora. Ciappacus. Ancora. Oh! Ragazzi! Che poi non so quando è riuscito. Sai quando? Quando l'abbiamo fatta? Lo stesso giorno in cui Sporttime mi ha regalato il Cayman nuovo, il 10. Ti ricordi? Disse la vacca al mulo. Oggi ti puzza il culo. Ho fatto la cazzo. Che cazzo di testo. Aspetta. No, volevo dire che questo disco... Wender, bello. Questo era proprio bello. Che cazzo è lo sto disco, Sarone? Senti? Caco! Bello, ti è piaciuto? Sì, era imbarazzante e bello allo stesso tempo. Quasi anche un po' sul lago di Iseo. Madonna! Mi fate dire una parola su sto disco? Facciamo una domanda a Pippo Palmieri. Questo CD, vedo Massimo Aresi d'altra parte... Questo CD, cosa ne pensi di questo album di Anonimo? Secondo te com'è? Voglio rispondere al mio amico Wender. Madonna! È alternativo, è imbarazzante, è un qualcosa veramente... È qui che ti volevo. Volevo sentirti dire è imbarazzante. È veramente un qualcosa di... Oh ragazzi, sono Mazzoli. Me lo fate dire qualcosa su sto disco? Imbarazzante. Bah. Faccio un po' di voce così. E tu metti, giochi col basso, il clap e giochi con le voci. Madonna! Dovete sapere più che altro che questo CD è stato fatto... Oh, ma posso dirla mia? In quanto tempo? Esattamente 4 giorni e 8 ore. Minchia, magari. Magari, no, cos'è un mese e mezzo? Sì. Cos'è, da fine settembre? Il mago Wender ci ha messo un mese e mezzo. Io ci ho messo 2 giorni e 4 ore. Però visto che stiamo facendo le robe, le facciamo bene con la testa. Madonna! Aspetta! Aspetta! Basta. Fatto un altro disco. Fabio, 35 centesimi? Sono veramente forte. Ho rifatto il disco. È una modifica di Aspetta, che a sua volta è una modifica di Ho fatto il disco. Quindi è un avanzo dell'avanzo. È un avanzo perché è lo sviluppo. C'è lo sviluppo sempre continuo. Dai, cazzo, fatemi dire una roba. No, così è bellissimo. Wender, Wender, così è bellissimo. Guarda che ci sta così il basso. Madonna, quindi ragazzi, mandate a fanculo, va. Alla fine è questa la cosa importante. Cassa che scassa, bello. Aspetta, chi è? Qui. Oh! Che c'è, Gibo? Cosa state facendo? Stiamo parlando dell'album di Anonimo. Nuovo disco. L'album di Anonimo. Abbiamo fatto l'album. E io? Non ci sei. Non ci sei. Ma come non ci sono? Fate un disco e non mi dite niente. No, Gibo. Ma allora siete dei figli di puttana! Bah.